Con Andrea Gropplero, regista del documentario Il colore della fatica, che sarà proiettato a Roma allo spazio Apollo 11 lunedì 3 giugno 2019, alla presenza dell'autore. Andrea, ben trovato. Carissimi, ben trovati voi. Allora, ci racconti di questo lavoro? Ma sì, guarda, è un lavoro, ovviamente si definire un lavoro sul Giro d'Italia in chiave marxista, è un lavoro in verità sulla fatica, io il mio lavoro precedente, un lavoro che ho fatto con Bifo, di cui avevamo anche parlato, che si chiama Comunismo Sì. Futuro, in cui io sostengo durante tutto il film insieme a Bifo l'inutilità del lavoro nella globalizzazione. Ecco, affermando l'inutilità del lavoro, questo comunque è un film sul ciclismo globalizzato che però mi fa riflettere su quanto sia inutile il lavoro, ma sia indispensabile la fatica. La fatica è liberatoria, la fatica è un momento, come dire, di pienezza di sé, ed è qualcosa che sfugge alle regole del plusvalore del capitale. Com'era nato tutto? All'inizio volevo fare un lavoro sui gregari, dopodiché stai lavorando con l'Istituto Luce, che è un archivio meraviglioso, insomma, è un po' veramente l'internet del secolo scorso, non so come definirlo in altro modo, però i materiali solo sui gregari ce n'erano pochi, insomma, quindi, come dire, il lavoro è venuto fuori un po' quasi da solo, insomma, perché la fatica è veramente una cosa che livella tutti, che livella tutto nel Giro d'Italia, nel ciclismo in particolar modo, nel senso che non importa se arrivi primo o ultimo, la fatica che fai è la stessa. Dopodiché ci sono i limiti personali, insomma, le cose così, ecco, in cui la fatica può dare risultati più o meno gratificanti. Ecco. Quindi il film l'abbiamo pensato e scritto con Nando Pellerano e Fulvio Molena, che lo ha anche sapientemente montato. Il nostro personaggio di riferimento, insomma, colui che ci guida dentro questo mondo del giro e della fatica in bicicletta è Davide Cassani. Però vorrei dire che appunto non è semplicemente un lavoro sul Giro d'Italia, è più un lavoro in fondo appunto sulla fatica degli italiani da quando esiste la bicicletta. Sì. Hai voluto la bicicletta pedala, diceva qualcuno, insomma, ecco, La bicicletta che torna ad essere uno strumento principe nelle città. assolutamente sì, infatti è, come dire, anche un inno a quella bellezza che in fondo, come dire, ha determinato proprio anche diverse condizioni di uscita, come dice anche Ernesto Colnago nel film, che è un grande costruttore di biciclette, un grande meccanico del giro, ha determinato anche una condizione di fuoriuscita dalla povertà nel primo dopoguerra per grandi masse, per grandi teorie di operai, teorie sentendo, c'è lo scrittore di Ladri di biciclette che parla di teorie intere di operai in biciclette, per teorie si intendono cortei, e allora mi piaceva l'idea di dire che la teoria è anche un corteo di biciclette a volte, ecco, insomma. Come hai legato le immagini d'archivio con l'oggi? Ma guarda, ti dirò che per me appunto la fatica è in bianco e nero, cioè il colore della fatica è in bianco e nero. A colori ci sono le interviste ai vari personaggi che ci hanno aiutato a capire il senso profondo di questo, insomma, di questa fatica, insomma, tra questi Massimo Cacciari, Romano Prodi, insomma, alcuni personaggi che amano moltissimo questo sport. E con loro abbiamo, come dire, un po' analizzato insomma, il senso più profondo di questa fatica. C'è uno spazio internet, per questo documentario? C'è una pagina Facebook che si chiama Il colore della fatica e lì si trovano abbastanza informazioni su questo strumento. All'Apollo 11, oltre alla proiezione, ci sarà anche l'incontro con te ed altri. Dunque, ci sarà sicuramente, io ci sarò sicuramente, avevo chiesto a Davide Cassani, ma Davide non può esserci, stiamo vedendo l'ultimo momento se avremo altri ospiti, ma insomma, sicuramente ci sarò io, mi rendo conto che è poca cosa, però insomma, questo è quello che posso garantire al momento. Allora ricordiamo l'appuntamento con il documentario Il colore della fatica a Roma allo spazio Apollo 11, proiezione e incontro con il regista Andrea Gropplero. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto, No, Andrea. grazie mille, prestissimo. Ciao. Grazie a tutti.